Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a tutti voi per il cortese ascolto, grazie a Cristiano Valli per la consueta regia. L'appuntamento rimane confermato per domenica prossima alla medesima ora. Buona giornata. Buona giornata a tutti.